Quando la parola di Dio parla di battesimo, non si riferisce ad un unico fatto, ma a vari atti o esperienze. Vi è il battesimo di Giovanni il Battista, vi è il battesimo di Gesù da parte di Giovanni, il battesimo di Cristo nella morte al Calvario, vi è il battesimo nello Spirito Santo, il battesimo per i morti, il battesimo di Mosè, i battesimi giudaici e il battesimo cristiano tramite immersione totale del corpo in acqua. In questo studio prendiamo in esame il battesimo tramite immersione totale del corpo in acqua, considerando 1. Chi lo ha istituito? 2. Come deve essere praticato? 3. Chi sono i candidati? 4. La sua efficacia? 5. La formula? E 6. Il suo significato spirituale. Prendiamo in esame ogni punto. 1. Chi ha costituito il battesimo cristiano in acqua? La risposta è una sola e sicura: Gesù Cristo. Matteo 28.1820. Poi Gesù si avvicinò ai discepoli e parlò loro dicendo: «Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Or, ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Amen». Cristo Gesù ha istituito 2 cerimonie chiamate nella maggior parte delle chiese sacramenti, cioè segni cerimoniali di cosa sacra. Essi sono la cena del Signore, chiamata impropriamente Santa Cena, e il battesimo in acqua. Il battesimo in acqua istituito da Gesù Cristo ha una particolarità che non ha precedenti. Mentre le verità fondamentali del cristianesimo e l'espressione della fede cristiana si rifanno al Vecchio Testamento per attestarne in questo modo la validità, la pratica del battesimo in acqua nasce nel periodo dei Maccabei, cioè poco più di un secolo prima di Cristo. Il battesimo in acqua era, per gli ebrei contemporanei a Gesù, un simbolo di purificazione e di consacrazione. In seguito venne il battesimo di Giovanni Battista, al quale si sottopose Gesù, che era il segno del pentimento per la remissione dei peccati. Prima di salire in cielo, Gesù ordinò ai suoi discepoli di andare per tutto il mondo e battezzare in acqua tutti coloro che avrebbero posto fede in lui. Perciò il battesimo in acqua non è una usanza nata dalla volontà dell'uomo come la confessione auricolare istituita dal cattolicesimo romano, ma è un atto d'obbedienza alla volontà di Cristo. Paolo stesso battezzava i credenti, 1 Corinzi 1.1-2.17, e questa dovrebbe essere una risposta sufficiente per chi afferma che il battesimo non è un ordinamento per la nostra epoca. Paolo lo considerava parte del suo mandato e lo praticava. 2. Come deve essere praticato il battesimo cristiano in acqua? La domanda sorge perché con il passare dei secoli il cattolicesimo romano ha cambiato la forma del battesimo. Ma agli inizi del cristianesimo non vi erano dubbi. Il battesimo cristiano in acqua andava amministrato per immersione. Una nota dell'evangelista Giovanni mette in evidenza come era praticato il battesimo Giovanni il Battista. Ora anche Giovanni battezzava in Enon, vicino a Salim, perché là c'era abbondanza di acqua. E la gente veniva e si faceva battezzare. Giovanni 3.2.3. Se il battesimo fosse stato per aspersione, come è praticato nel cattolicesimo romano, non ci sarebbe stato bisogno di molta acqua. Inoltre, se Giovanni praticava il battesimo in acqua per immersione, è molto difficile pensare che in seguito Gesù abbia cambiato, ordinando di battezzare per aspersione. Perciò, chi desidera ricevere il battesimo cristiano in acqua deve essere immerso totalmente nell'acqua, come lo furono Gesù, Matteo 3.16, e l'eunuco, Atti 8.383. Infatti il verbo battezzare significa immergere, tuffare, sommergere. Il candidato quindi viene immerso completamente nell'acqua per poi uscirne subito dopo. 3. Chi sono i candidati al battesimo cristiano in acqua? Anche questa domanda non dovrebbe essere posta, ma siccome il cattolicesimo romano utilizza impropriamente e per sola aspersione il battesimo, dichiarandolo il mezzo necessario affinché i neonati possano diventare figli di Dio, ci si chiede a chi in realtà debba essere ministrato il battesimo in acqua. secondo la scrittura, sono degni di essere battezzati tutti quelli che hanno posto fede in Cristo quale papa spirituale della loro vita, cioè la massima autorità per quanto riguarda la fede. Gesù lo disse molto chiaramente. Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato, ma chi non ha creduto sarà condannato. Marco 16,15. Dunque, secondo la parola di Dio, il battesimo cristiano in acqua deve essere ricevuto da tutti quelli che, avendo accettato il giudizio di Dio che li qualifica peccatori senza possibilità di rimedio a causa della natura corrotta ereditata da Adamo, si sono pentiti dei loro peccati e accettano il perdono di Dio, quale soluzione per entrare in cielo. Essi sono coloro che sperimentano la nuova nascita per lo Spirito Santo e non mediante un rito religioso, come secondo la pratica del cattolicesimo romano. Pretendere che il battesimo sia ministrato a dei neonati o bambini in un'età in cui sono ancora incapaci di intendere corrisponde a capovolgere o annullare il principio di Dio della salvezza da riceversi per grazia mediante la fede, cosa, questa, della quale la religione cattolica romana dovrà rendere conto non solo alla parola di Dio, ma anche al Dio della parola. 4. Qual è l'efficacia del battesimo cristiano in acqua? Quando Dio ordina qualcosa all'uomo è sempre per istruirlo. Perciò, il battesimo cristiano in acqua ha un certo valore. Il cattolicesimo romano attribuisce al battesimo in acqua il valore di comunicare qualche virtù, e precisamente la possibilità di diventare figli di Dio, ma in tutta la scrittura non vi è nessun accenno che il battesimo in acqua comunichi qualcosa. Piuttosto è un segno evidente che sigilla il già avvenuto ingresso di un figlio di Dio nella Chiesa universale. In effetti, dei primi credenti che posero fede in Cristo è scritto quanto segue. Quelli dunque che ricevettero la sua parola lietamente furono battezzati. In quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Atti 2.41. Il battesimo in acqua di per sé non ha nessuna potenza per salvare, dunque le persone vengono battezzate, non perché siano salvate, ma perché lo sono già. Pertanto occorre ribadire che il rito del battesimo cristiano in acqua non è assolutamente indispensabile per la salvezza, ma è possibile dire che è indispensabile per la completa obbedienza a Cristo e per una completa identificazione con il popolo di Dio. Nella parola di Dio non esiste nessun accenno a sostegno dell'efficacia del battesimo praticato ai neonati al fine della loro salvezza, e neppure si trova che i primi cristiani battezzassero i neonati o dei bambini non in grado di prendere una decisione. Se poi rendesse figli di Dio solo i bambini che sono battezzati, che dire allora di tutti quelli che non ricevono il battesimo? Sarebbero condannati solo perché non hanno conosciuto il cattolicesimo romano? E che dire dei bambini che diventano figli di Dio mediante il battesimo e poi sono condannati all'inferno perché da adulti hanno rifiutato la fede cristiana? Se i figli di Dio vanno all'inferno, come sostiene il cattolicesimo romano, qual è l'utilità del battesimo? Il romanesimo deve prendere atto dei suoi errori. 5. Quale formula dichiarare in occasione del battesimo? Su questo aspetto esistono varie opinioni. Secondo l'ordine di Gesù, il battesimo in acqua deve essere fatto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È vero che si legge nel libro degli Atti che alcuni furono battezzati nel nome di Gesù, ma la formula che Gesù ha indicato contiene anche di battezzare nel nome di Gesù, perciò chi battezza con la formula trinitaria nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo certamente non sbaglia e testimonia di essersi tuffato in una comunione spirituale con la Trinità. 6. Qual è il significato spirituale del battesimo cristiano in acqua? Il significato spirituale del battesimo cristiano in acqua è di una tale estensione che tanti credenti non l'hanno compreso e tantomeno lo stanno vivendo. A. Con il battesimo cristiano in acqua il credente testimonia della sua conversione. Atti 2.41. Chi viene battezzato afferma di aver accettato Gesù come Signore e Salvatore e di conseguenza dichiara che la sua vita non gli appartiene Egli dichiara pubblicamente che la sua esistenza come peccatore è terminata e che da ora in poi vivrà unicamente per compiere la volontà di Dio. B. Con il battesimo cristiano in acqua il credente testimonia della sua morte spirituale. Romani 6, 3, 11. Convertirsi significa morire al peccato, cioè rifiutare tutto ciò che non piace a Dio. Il battesimo esprime questa realtà in modo evidente quando il battezzante è immerso temporaneamente nell'acqua. In quel momento l'acqua diventa la sua tomba e lo sarebbe se non ne uscisse fuori subito dopo. C. Con il battesimo cristiano in acqua il credente testimonia della sua risurrezione. Romani 6, 8. Un morto rimane tale finché non entra in lui una nuova vita. Il credente è un morto risuscitato, perché ciò che vive in lui è la vita di Cristo. Galati 2, 20. L'atto di uscire dall'acqua simboleggia la volontà di vivere una nuova vita con un nuovo obiettivo, quello di piacere a Dio. D. Con il battesimo cristiano in acqua il credente testimonia della sua completa sottomissione a Cristo. 2 Corinzi 5 e un quarto, e del suo impegno a vivere per colui che lo ha salvato. E questo non per dovere, ma per amore. Se la parola Islam vuol dire sottomissione, allora il battesimo in acqua per il credente diventa la proclamazione del suo Islam. E con il battesimo cristiano in acqua il credente testimonia della sua consacrazione a Dio. 1 Corinzi mezzogiorno e 12 e di far parte del corpo di Cristo come pure della sua grande famiglia. Con il battesimo il credente si impegna pure di partecipare alla vita della Chiesa locale, alla quale decide di appartenere e di mettere al suo servizio i doni che Dio gli ha affidato. Da queste riflessioni risulta evidente che il battesimo cristiano in acqua non è semplicemente un rito, ma un atto d'obbedienza a Cristo e una testimonianza che non sarà più cancellata. Hai ricevuto tu il battesimo cristiano in acqua? Se non lo hai fatto, ti sei chiesto il perché. Se non ti ritieni pronto o non ti ritieni degno, sappi che non lo sarai mai. Perciò se sei stato salvato e sei sicuro di essere perdonato per tutti i tuoi peccati, allora chiedi il battesimo cristiano in acqua anche oggi, perché Gesù te lo ordina. Febbraio 2007, Ellero.